Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Oggi è il 14 marzo del pomeriggio di Radio 24, quella che va per partire è Italia in controluce, il programma quotidiano in due edizioni, 6.30, 13.30, che vi racconta l'Italia, l'Italia della cronaca, ma anche della politica, dello sport, dello spettacolo, della società italiana. Le mani della criminalità organizzata sui cantieri della TAV. Sul fronte dell'alta velocità non solo soltanto le proteste a preoccupare. Maria Luisa Pezzali. In questo momento l'Italia non è in grado di garantire che il cantiere della TAV non diventi la più grande miniera per le mafie. Il tracciato della Lione-Torino si può sovrapporre alla mappa delle famiglie mafiose e dei loro affari nel ciclo del cemento. L'allarme è di Roberto Saviano, che ricorda come il Piemonte rappresenti la terza regione in Italia, dopo Calabria e Lombardia, per penetrazione dell'andrangheta. Proprio in Piemonte, nel 1995, fu sciolto per infiltrazione mafiosa il primo comune del nord, Bardonecchia. A prestare il fianco allora furono gli appalti autostradali collegati al traforo del Frejus. Negli ultimi 30 anni l'alta velocità, sostiene Saviano, è diventata uno strumento per la diffusione della corruzione e della criminalità organizzata. Un modello vincente di business perfezionatosi dai tempi della costruzione dell'autostrada del Sole e della ricostruzione post-terremoto in Irpinia. Modello che ruota intorno al meccanismo della concessione. La messa in sicurezza dell'economia è un problema urgente, concorda Enrico Fontana di Libera, l'associazione contro le mafie. Lo scioglimento dei consigli comunali, le inchieste della magistratura confermano che su questa filiera specifica, il ciclo del cemento, gli appalti, le opere pubbliche, i clan, l'andrangheta in particolare, non solo, stanno giocando la loro scommessa e bisogna avere la guardia alta, e fa bene Saviano a richiamare tutti a tenerla alta. In particolare Saviano chiede la messa in sicurezza dell'economia e, tra le altre cose, una revisione dei certificati antimafia delle imprese. Qui bisogna studiare un sistema di monitoraggio sicuramente più efficiente di quanto non sia stato messo in campo finora, ma la responsabilità riguarda in generale il mondo delle imprese e la politica in particolare. Bisogna tagliare i cordoni, i punti di contatto con le imprese, i soggetti affiliati, vicini alle organizzazioni criminali, che certo non si presentano con la scoppola e con la lupara, per usare una metafora, ma hanno magari il volto di chi offre servizi a costi ridotti, garantisce movimento terra alla metà del prezzo lecito, pratica ancora l'abusivismo edilizio, perché c'è abusivismo edilizio anche nel nord del paese, si presta insomma a fare operazioni sotto costo, magari sfruttando il lavoro nero, che in questo clima di concorrenza feroce per le poche opere pubbliche che si debbono realizzare potrebbe indurre qualcuno ad accettare la scommessa. Ecco, la prima prevenzione vera si fa alzando il livello di attenzione da parte di chi opera direttamente in questi settori e da parte di chi deve svolgere funzioni di vigilanza e controllo. Le grandi opere fanno gola non solo per gli appalti, ma anche perché sottoterra si può nascondere di tutto. Indagini recenti lo hanno rivelato: per arterie anche importanti, stradali e autostradali nel nord del paese, questi interventi fatti da imprese che poi sono finite nel mirino della magistratura perché collegate a famiglie dell'andrangheta in particolare, che confermano questo scenario. Ci sono state anche indagini recenti sul cosiddetto calcestruzzo depotenziato, cioè ovviamente sul fatto che chi opera nell'illegalità non ha alcun interesse a fare le opere pubbliche rispettando neppure i requisiti tecnici, quindi con grave pericolo per la stabilità, la struttura delle opere. È una filiera criminale quella dell'ecomafia che lavora nel ciclo del cemento e connessa nel ciclo dei rifiuti, che, lo ripeto, soprattutto al nord ci preoccupa molto. Non si può bloccare la TAV per paura della mafia, sarebbe drammatico, sostiene il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, che promette norme più stringenti contro la corruzione. Mario Virano, commissario straordinario del governo per la TAV, ricorda che a questo scopo è già stato costituito il gruppo Interforze TAV e a Saviano dice: lavori con noi per far vincere la legalità. Saviano dice anche giustamente che questa questione non si risolve soltanto con questi strumenti, diciamo, preventivi e repressivi, se non c'è un contesto, un habitat socioculturale che faccia percepire come inaccettabili le opacità mafiose e le pressioni. Quindi da questo punto di vista, raccogliendo questo, in particolare questo aspetto del suo messaggio, io gli ho lanciato l'invito di fare una sessione dedicata a questo tema, organizzata dall'osservatorio che io presiedo, con tutti gli amministratori e con tutti i soggetti a vario titolo interessati al tema e al territorio, quindi sindaci, operatori del mondo economico, del mondo sindacale, del mondo culturale, dell'associazionismo, eccetera, che a prescindere dalle posizioni sulla Torino-Lione, opportunità di fare l'opera, opinioni diverse in materia trasportistica, eccetera, però possono e devono trovare un punto comune sul fatto che le infrastrutture si fanno o non si fanno perché si sceglie di farle o di non farle, ma non perché si ritiene, possa darsi il caso, che siano oggetto di infiltrazione mafiosa. Quella va comunque combattuta e bloccata, non importa quale sia l'oggetto a cui quelle attenzioni mafiose si possano applicare. Non è possibile abbandonare i processi di modernizzazione del paese perché c'è un rischio di questo genere, così come non è possibile sottovalutare questo aspetto. Quindi creiamo una grande occasione di sensibilizzazione mirata su questo tema in Val di Susa e i suoi effetti, se si fa, possono essere benefici in generale sul tema della legalità che, come ho detto, in Val di Susa, su altri fronti, ha subito molti vulnus nell'ultimo periodo. È sempre bene ricordare che la mafia al nord non ha usato il tritolo, ha bussato alla porta e qualcuno le ha aperto, ci dice Giuseppe Ayala, ex magistrato del pool antimafia di Palermo, fra i primi a denunciare 20 anni fa, insieme a Giovanni Falcone, l'infiltrazione delle cosche nel tessuto economico del nord. È chiaro che sia sotto gli occhi di tutti. Ed è chiaro che il canale d'ingresso soprattutto è stato quello economico, cioè alcune imprese mafiose si sono affacciate su quel mercato, specialmente nell'edilizia, da quello che almeno risulta alle indagini, e hanno trovato le porte aperte. Ad alcuni imprenditori del nord ha fatto comodo avere a che fare con queste imprese, fondamentalmente perché dotate di capitali freschi in abbondanza, che poi provengano dal traffico internazionale di droga, lasciamo perdere, e probabilmente anche erano imprese che assicuravano tutto il nero che si voleva. Il nero è un colore che in certi ambienti economici piace molto in Italia. Non c'è dubbio, io credo, che se c'è una vera volontà politica, ma anche burocratica, amministrativa, di mantenere puliti gli appalti pubblici, le possibilità ci sono. Per quanto riguarda nello specifico la TAV, non c'è dubbio che lì i riflettori non sono accesi, di più. Dovrebbero fare tanta di quella luce che, insomma, mi piace pensare che un'impresa mafiosa non riuscirà ad aggiudicarsi qualche appalto che riguardi la TAV. Mi piace pensarlo, incrocio le dita però. Nel giugno 2011 l'indagine Minotauro, la più grande contro l'andrangheta in Piemonte, ha portato in carcere 150 affiliati, grazie alla collaborazione chiave di Rocco Varacalli. Questo uno stralcio della testimonianza del super pentito qualche settimana fa davanti alle telecamere di Presa Diretta. Ci sono tante ditte che continuano a lavorare e a fare questo, appalti pubblici, soprattutto. L'indranghettista ha bisogno del politico e il politico ha bisogno dell'indranghettista. Il politico ci dà a noi i lavori, sono accordi fatti già prima. Se vinci tu, tutti i lavori pubblici attorno a quel comune li facciamo tutti noi l'ndrangheta. Tutti gli altri che non sono riusciti fino ad oggi a trovare le prove sono liberi. Quindi la 'ndrangheta non finirà mai a Torino, mai e mai. Italia in controluce, vi ricordo che questa, come tutte le altre puntate, le trovate su radio24.it, quindi sono scaricabili in podcast. Siamo su Facebook, abbiamo la pagina e il gruppo con centinaia e centinaia di adesioni. Siamo su Twitter, dove potete trovare quotidianamente i temi di questo programma, e naturalmente abbiamo il blog su radio24.it.